fissa grande, rido dei miei sbagli e rifletto comodamente. Entro un altano vizio, mi dissolvo come neve al sole, ma non mi sento un fiore che appassisce languidamente. Se ti rilassi, saprei crearti un po' più donna, liberando le tue fobie, ma non sai essere diversa. Entro un altano vizio, mi dissolvo come neve al sole, ma non mi sento un fiore che appassisce languidamente. E non mi riesce di capire il colore che mi appartiene. E non mi riesce di capire il colore che mi appartiene. E non mi riesce di capire il colore che mi appartiene. E non mi riesce di capire il colore che mi appartiene. And no me riesce.